La commissione si riunisce appunto solitamente una volta all'anno ed è composta da circa 54 membri, cioè non è mai definitivo fino all'ultimo giorno prima della riunione questo numero. Ci sono dei meccanismi interni per cui, tanto per fare un quadro, all'interno della commissione c'è una spaccatura netta tra il gruppo di paesi contro la caccia, come l'Italia, e i paesi favorevoli alla riapertura della caccia. Attualmente la maggioranza è detenuta dai paesi contrari alla caccia, però questa maggioranza è decisamente a rischio, la maggioranza semplice appunto. Esiste una moratoria che è stata emanata dalla Commissione Baleniere Internazionale nel 1986 ed è una moratoria contro la caccia commerciale, quindi è vietato cacciare a scopi commerciali. Anche se questo discorso viene bypassato da paesi come Giappone e Islanda che ottengono permessi scientifici per cacciare, però di fatto cacciano a scopi commerciali. I rischi sono alti in questo senso. Allora, si sono creati negli anni dei santuari, come santuari che sono delle riserve marine nel mondo, per dare appunto la possibilità a questi animali già decimati da anni e anni di caccia di ripopolarsi. Purtroppo appunto, se invece già a partire dalla riunione di quest'anno si faranno dei passi indietro, quindi perdendo l'attuale maggioranza contraria alla caccia e riaprendo diciamo un fronte grosso favorevole alla caccia, è chiaro che nel giro di qualche anno parecchie specie insomma sono a rischio di essere proprio estinte. Quindi è una questione, diciamo, che dipende molto dalla direzione che prenderà la commissione quest'anno. In questo momento le notizie non sono buonissime, proprio perché la maggioranza è quasi pari adesso, siamo a una conta di praticamente 28-28 come paesi presenti, però non lo sapremo fino a lunedì mattina quando si apriranno i lavori, perché da parecchi anni il Giappone porta avanti una politica di acquisto voti notevole in cui investe parecchie risorse proprio per acquistare appunto i voti dei paesi in via di sviluppo prevalentemente, finanziando la loro industria ittica locale in cambio di un voto favorevole alla politica giapponese nell'ambito della commissione. E di solito appunto questi nuovi paesi entranti il Giappone li presenta il lunedì mattina, e quindi purtroppo non lo sappiamo quale sarà. Sicuramente il rischio è molto alto perché la spaccatura è netta, e perdere la maggioranza semplice vuol dire che il 50% più uno dei paesi rischiano di diventare favorevoli alla riapertura della caccia.